non c'è nessuno. E beh, c'è qualcuno qua. Senta. CQ canale 10, CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Niente. Oh, Finocchi! Una cosa, Finocchio sarà e anche un diacone Francesco. Oh, Nathalie, sono arrivato adesso. Volevo mettermi il baracchino in macchina, avevo preparato tutto, c'è anche, ho incontrato una persona che conoscevo che non vedevo da tanto, ci siamo trattenuti e si erano fatte già le 6:30 passate. Sono giusto andato da Lidl, il baracchino non ne ho messo in macchina perché ormai sono andato da Lidl a pigliare due cose e sono rientrato in questo istante. Ehi, va bene, non c'è problema, se non lo devo fare. Cos'è questo rumore nel microfono? Ma c'hai l'eco? No, no, è che c'avevo un filmato che stava andando, va bene. Mi sto scrivendo attorno ai numeri nella rubrica, non so quanti ne ho perso, non hai idea. Minchia, ma Claudio non è entrato? Negativo, io da quando ho acceso non è entrato nessuno, ho chiamato svariate volte. Aspetta. Vabbè, non dire che oggi era la giornata, là. Io l'ho sentito prima di uscire, tipo alle 5:30, ho sentito che lui mi chiamava, ma io stavo uscendo in quel momento, non potevo rispondere. E vabbè, dai, sarà andato a portare il cane anche. Se avevo pazienza. Pazienza, Tali, dai. Ecco, finito. Almeno ce li ho questi qui, se no avevo preso quello di Gianni, di Giulio, di Claudio, di Gianfranco, io me li ho segnati in questo coso adesso e me li stavo scrivendo. Eia. Adesso mi sono organizzato, ho preso le batterie nuove per tutti i PMR, per i Brondi FX Dynamic, per quelli GBC, tutto. Adesso sono in carica, dovrò fare 3 cicli di carica. E la carica dura 16 ore, mi pare, anche di più, diciamo, dai, anche 20 ore. Quindi domani mattina restacco, metto l'altra serie, eccetera, eccetera. E così finalmente ho le batterie nuove, perché quelle di serie erano ormai andate, non caricavano più. Infatti. Vabbè Marco, non c'è problema, adesso questi Android sono una merda, questi telefoni. Ne ho recuperato anche dall'altro telefono che è senza scheda e me lo fa anche accendere senza scheda. Sono entrato nella rubrica e mi ha preso dei numeri. Ma come hai fatto a perdere i numeri? Qualcosa è successo? Siccome ce li avevo doppi, cercavo di cancellarli e pigli tutti e due i numeri, ma vaffanculo, guarda, va, un casotto. Non te la prendere. Adesso mi scaldo la pizza, qua c'è dell'insalata, mi scaldo la pizza. E finalmente cena, pranzo è, quando tu ceni io pranzo, roba da matti. Ma tu a che ora pranzi tu, a Natalia, all'una o alle due? All'una pranzo io. Quando lavoravo che uscivo alle due e pranzavo alle due, capisci? Come uscivo a lavorare, due qualcosa, là. Perché uscivo tardi alle due. Alle due qualcosa pranzavo quando arrivavo, non so. Ehi, vabbè, giustamente. Sono andato in banca stamattina, siamo usciti con mamma il pomeriggio, sempre da Lidl. Poi non mi bastavano i soldi e sono dovuto ritornare stasera per comprare anche le stilo. Cioè le mini stilo, le stilo le avevo prese già stamattina. Cioè nel pomeriggio, diciamo. Dai, insomma, tutto il giorno va avanti e indietro. Dai. Però almeno quando si fanno commissioni ti senti anche più vivo. Stare sempre a casa ti senti un cadavere. Sì, infatti. E beh, fatela con la commissione. Quale? Di ordinare quella roba là. Come cavolo si chiama? Quel filtro. No, perché tu i soldi me li hai dati. Io ho i soldi giusto per comprare quello che devo comprare stasera. Ma se tu non mi dai i soldi? Veramente io ti ho detto di venire a pigliarli i soldi. Io a te non faccio mai. Ah, li devo devo scendere io o me li devi portare tu sulla soglia di casa, se no mi tocca scendere di nuovo a piedi e mi viene un infarto. A piedi devi camminare, sono infarto ti viene a dare a me questo. Modulerò dalla sedia a rotelle in futuro. Ma sa che non sia, toccati le balle. Se riuscivo a farmi la carta me l'avrei ordinato io, fammi guarda. Natali, tu fai un bel problemi. Basta andare in Piazza Italia, a Monte dei Paschi, e chiedi, vorrei fare una carta prepagata alla Spider Saldo, o come ti si chiama. La carta prepagata, te la fanno sul momento. Tu ti fai mille problemi, te l'ho detto, basta e vai lì. Non è che sia lontano nemmeno, vabbè, devi salire tutto lì. In certo in salita, ma pidi un tram, pidi un coso. Te la fai ed è molto più efficiente di quelle minchiate di carta dei tabacchini, dei cosi. E quanto si paga al mese? A me mi fanno pagare per quella che ho alla banca. €1 al mese. No, si paga all'inizio, €10 all'inizio, e poi mi pare ogni rinnovo è €10 all'anno, però, all'anno. Vabbè, €9, mi sono pagato €2 in più praticamente. Quella dell'Unicredit, ma poi non c'è la banca, cazzo. Tocca andare alla Predanida o a Piazzattola, mi tocca andare a Peri, a Piazzattola. Infatti vado sempre a quella di Predanida io, proprio per quel motivo, perché non posso andare, ma posso salire lì a Piazzattola, per me è un ammazzamento. Eia. Purtroppo se in macchina non si può andare perché è impossibile fermarsi là, è impossibile fermarsi, è un caos. Purtroppo a piedi si può andare in tram, per esempio la 7 passa sotto casa tua, ma non c'è manco bisogno di fare il biglietto, tu devi andare solo da lì, prendi la 7 fino a Viale Trento, prima che svolti, cioè in Viale Umberto, prima che svolti in Viale Trento. Capito? E sei già in Piazza Italia. Vabbè. Comunque già sai da quando ce l'ho con la prima, avevo la Crystal Best, la prima che ho fatto. La Crystal Best. Poi mi era scaduta, non so, avevo perso anche il codice PIN, allora mi sono fatto la Spider, si chiama, MPS Spider, Monte dei Paschi Spider. Ho capito, se la faceva il Banco di Sardegna mi sarebbe andato meglio. Beh, se la fanno falla, se la fanno è buono, no? Tanto non devi avere conto, non devi avere alcun conto. Come me, io conto non ne ho, semplicemente ho chiesto se potevo fare una prepagata e me l'hanno fatta subito. Non c'è problema. E infatti, gira gira chiedo al Banco di Sardegna, che lì esco da Via Rosello e sono arrivato. Quelli là non me la vogliono fare perché bisogna annullarla, bisogna telefonare, un casino bisogna andare. E vabbè. Ma dove? Al Banco di Sardegna? Ah, quella che ho, quell'altra di Predanita, cioè di Viale, di Piazzattola, quella che ritirava lo stipendio, quella non la do a nessuno, proprio no, perché mi arrivano roba dall'Inps lì, mi arriva, e poi c'ho quella della posta, no, quella della pensione, però quella mica la posso, è di Rabinzioni. Io addirittura avevo fatto la PostePay alle poste, l'ho fatta inutilmente, perché ero convinto che per pagare una persona dovessi fare la carta. Quindi me l'ho fatta la carta, poi invece ho saputo che per pagare basta andare al tabacchino, dare nome e cognome della persona, il codice fiscale e paghi. E boh. Cioè vai al tabacchino e paghimi. E quindi questa carta delle poste, PostePay me la ce l'ho inutilizzata. E non ho intenzione di utilizzarla perché mi trovo meglio con la carta di credito del Monte dei Paschi. Te l'ho detto, non ci vuole né conto né niente. C'hai 5 euro, ci metti 5 euro. Per dire, se devi comprare una cosa. Il costo della ricarica, quando devi mettere soldi, costa €2,50 l'operazione. tariffa alla cassa interna dalla signorina. Io per esempio oggi ho messo, quanto ho messo? 85 e ho pagato 2,50 per la ricarica della carta, capito? Ho capito, ha giù capito. Io purtroppo quell'antenna lì alla fine non la prenderò perché non... Cosa me ne vado? Nell'altro terrazzo a modulare da lì? Ma tutte fantasie sono, poi non ci andrò mai. Vediamo se c'è l'ascolto Giulio. Giulio, ci sei? Oh, proprio deserto oggi, eh. Non c'è Capri 2, non c'è Franco. Vabbè, vuol dire che oggi è ragionata di commissioni come ho fatto io. Bene. Adesso Natali, scusami un attimo che accendo il fornetto con la pizza e mi lavo anche le mani e rientro subito. Ah, ma già sono qui. Mi, manco adesso, Capri 2 c'è, mi. Però stai uscendo male. Guarda, stai uscendo talmente male che sembri in banda laterale. Stai strappando, non a dire strappando, poi sento... Abbassa, abbassa. Ma come mai? L'avevamo già regolato e di nuovo punta a capo. Ehi, io vado a scaldare la pizza e a lavarmi le mani, a dopo. Eccomi qua, Natalino. Uia. Ehi, ha fatto, ha acceso il fornetto, ho lavato le mani. Ui, che stanco che sono. Vediamo se Capri 2 è riuscito a regolarlo. Mamma mia, ma come si fa a uscire in quelle condizioni? È completamente distorto, distortissimo, eh. Abbassa, abbassa, abbassa ancora. Ammetti, il macchinino a 1, se mi ascolti, il macchinino a 1 e portala almeno a 50 cm lontano l'MC60, se no uscirai sempre male. Fermo, non tocchese, non tocchese. Adesso è uscito bene, l'hai visto? Che si toccano, per forza. Ogni giorno lo regola, poi il giorno dopo entra ed esce di nuovo male. Ma com'è possibile? Ottimo, non tocchese, non tocchese. Ehi, guarda, adesso è perfetto. Adesso com'è? Quindi è un'altra radio quella. Ah, sì, sì, l'MC80, sì, sì. Ho capito, sì, l'ho visto anche in foto. Eia, adesso esce bene veramente. Vero Natali? Eia, adesso vai al negozio, ti compri un tubetto di acqua che ce lo metti lì, nella manopola del marchigino. Che vuole più di uno non lo devi mettere, perché se lo metti più di uno strappa immediatamente quell'attrezzo lì. Adesso sei perfetto. E Marco è uscito a comprare due cosette lì. Io sono andato a portare il cane, tutte cose, e non c'ero perché mia moglie non si sente tanto bene, e allora sono andato io a portarlo. No, no, sono a 4 watt, non posso salire di più, se salgo di più appena disturbo, e non mi piace disturbare, ho due filtri anti-TV addirittura, perché se non metto quelli anche a 1 watt disturbo. Speriamo di non disturbare con questi due filtri, perché ho l'antenna bassa, finché non metto l'altra, che me la sto costruendo piano piano, un'antenna di quelle a canna da pesca, me la metterò anche più alta, così senza radiali non dovrebbe disturbare. Vediamo un po', perché sennò più di così non posso usarlo, capito? No, negativo, ho fatto 6 mesi al comune, adesso sono disoccupato, torna. E non ci chiamano più perché hanno dato tutto un appalto, beh. Figurati. male di me non fa nessuno, perché sono disoccupato del tutto. E qua, boh, se non hai conoscenze non fai nulla. No, su giù no. Conosco Melis, Achilli e basta. E 280 euro di invalidità prendo per l'infarto che avevo avuto nel 2007 e basta, non piglio altro, figurati, e me la vogliono pure togliere. Cosa non ti ho capito, ripeti oppure fai da parte Marco, che non l'ho capito cosa detto. È logico, 5 pastiglie al giorno prendo, capito? Prendo quelle per la pressione, quelle per il colesterolo e la cardiaspirina piglio. E boh. No, niente accompagnamento, mi hanno dato solo il 75%, capito, perché prima avevo il 67% e non me ne davano pensione. Poi ho fatto l'aggravamento io, e da prima l'avessi fatto, e allora contributi non me ne hanno messo, ne ho pochissimi. E lo so, ma se non trovi lavoro è peggio andare al buio, è quello, mi daranno la sociale se arrivo vivo quando me la danno, e non lo so poco però, e già lo so che ha fallito, se non pagava nessuno quello, quindi mi nira. A me sono riuscito a prenderglielo solo uno stipendio, l'altro toccava fare un'altra casa, l'ha lasciato perdere, capito? E non metteva niente in regola, non caricava gli estintori, era tutto arraffazzonato, era già, era tutto come voleva lui, però non funziona come teoria Edu. Oggi mi si incendia il burmino una volta, l'ho messo a posto io, una volta gli ho cambiato il filo della frizione, se no non poteva camminare. Il meccanico non riuscirà con te, avrà già con te. Dimmi tu, non pagava nessuno, l'ha pizza per quello. Allora che era un truffaldino, era, non pagava nessuno, fini minira. Se prima me ne ero uscito con tante cose che mi dava, poi piano piano me le toglieva tutte, ma vai ammazzati, a Ravini mi ne sono andato, ho telefonato a Olbia, a Stefano, Sanna, ho detto ma tu lo conosci a questo qui, la gente, mamma mia, vattene subito che non paga nessuno, abbaga, finta in Olbia lo gunisciami. Starà mangiando, vai a fare quello che devi fare, già ci sentiamo dopo, già sono qui.